9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Oggi parliamo dell'Ilva, partendo, toccheremo anche il tema industriale, insomma, come è messa industrialmente l'azienda e che cosa ci si può aspettare per i prossimi mesi. Però vogliamo partire da un punto che è stato sottolineato, anche una linea di contrasto, se vogliamo, tra due anime della maggioranza, che pare che si sia espressa ieri in Consiglio dei Ministri. E il punto è questo: l'estensione del decreto che ieri ha di fatto stabilito il commissariamento dell'Ilva, un commissariamento di 12 mesi che si può estendere fino a 36 mesi e che riguarda, però, perché le leggi, come si sa, insomma, si possono fare per tamponare le emergenze come in questo caso, ma hanno portata generale e quindi riguarda tutte le aziende che hanno almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale. Le aziende di interesse strategico nazionale sono quelle sopra i 200 dipendenti e la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa di inosservanza dell'AIA, la famosa autorizzazione integrata ambientale. Dunque ci sono preoccupazioni anche da parte degli industriali, oltre che da alcuni settori della maggioranza che oggi, insomma, anche sui giornali dichiarano. Altero Matteoli dice c'è il rischio di una dittatura comunista addirittura. C'è chi parla di rischio di esproprio, perché l'estensione del decreto potrebbe essere appunto molto ampia. Ricordiamo che nella lista delle aziende che inquinano di più, secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, e gli stabilimenti che inquinano di più, ci sono 600 aziende, il 10%, quindi 60 aziende sono italiane, e c'è dentro di tutto, non ci sono solamente le acciaierie ovviamente, ma ci sono per esempio delle centrali elettriche, c'è anche, per dire, la miniera di carbone della Carbosulcis, per darvi un'idea, e tra le aziende sottoposte ad AIA ci sono per esempio aziende alimentari, aziende che producono carta, insomma, quindi qualche filo di preoccupazione da questo lato evidentemente c'è. Saluto innanzitutto Paolo Bricco, collega del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E che oggi tra l'altro firma un commento in merito a questo. E saluto Massimo Mucchetti, che è senatore del Partito Democratico, presidente della Commissione Industria, tra l'altro è un ex collega giornalista che, come dire, essendo di fieramente bresciano, se così possiamo dire, ha un rapporto con l'acciaio particolare, lo possiamo dire, c'è una certa conoscenza del settore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Mucchetti, come si risponde a queste preoccupazioni che arrivano dal mondo degli industriali e, ripeto, anche da settori della maggioranza della quale lei fa parte? Intanto credo che l'industria italiana abbia bisogno di certezze per poter operare, per poter investire, per poter lavorare anche naturalmente nel rispetto delle leggi. La situazione di Taranto, che riguarda uno stabilimento, il più grande del gruppo Ilva e del gruppo Riva più in generale, è stata fino ad oggi una situazione contrassegnata da una drammatica, per certi aspetti tragica, incertezza dovuta alle inadempienze dell'azienda. Di questo bisogna che ne siamo consapevoli, e sotto il profilo della tutela ambientale del sito produttivo, e dall'altra parte degli interventi corretti, diciamo così, della magistratura tarantina, che ha fatto rilevare tutta una serie di incongruenze e ha preso i suoi provvedimenti. Ora, io non entro nel merito delle iniziative della Procura, ma constato che fino all'altro ieri c'è stata una situazione di straordinaria tensione fra l'azienda, i sindacati, il governo e la magistratura. Questa situazione rende difficile tutto, questo è il punto da cui partire, non un commento ideologico alle decisioni che ha preso ieri il governo. Vede, io non so se fare un commissario ad acta piuttosto che un commissario, diciamo, onnicomprensivo. Commissario ad acta significa un responsabile soltanto dalla parte di risanamento ambientale, no? Lasciando alla proprietà e ai suoi rappresentanti la gestione nel complesso dell'azienda, oppure se commissariare tutta l'azienda in modo tale da asservire per un periodo di tempo chiaro e limitato i risultati economici dell'azienda al risanamento ambientale. Guardi, non ho ancora abbastanza informazioni per dire se sia meglio una soluzione piuttosto che l'altra. Quello che voglio però dire è che con questo provvedimento si pongono le premesse per uscire dalla situazione di incertezza nella quale è stata per ormai 2 anni l'Ilva di Taranto. Questo è il punto. Chi contesta questo provvedimento deve dire come concretamente si salva l'Ilva di Taranto. Questo è il punto. Si salva l'Ilva di Taranto, per salvare l'Ilva di Taranto bisogna che l'ambiente tarantino venga rispettato e salvaguardato. Ora, il provvedimento di ieri va letto assieme ad un'altra iniziativa, che è quella di redigere un piano ambientale che può presentare dei profili di interesse o, aggiungo anch'io, delle preoccupazioni. Perché noi abbiamo una AIA, come oramai la gente ha imparato a dire, no? Autorizzazione integrata ambientale, che prescrive tanti interventi, oltre 90, sullo stabilimento, con una spesa stimata attorno ai 3 miliardi in 36 mesi. Questo è quello che bisogna fare. Ieri abbiamo audito in commissione il viceprefetto Stefano Laporta, che è il direttore generale dell'ISPRA, cioè di una specie di guardia di finanza, per farmi capire da chi ci ascolta, che ha il compito di monitorare, controllare, vedere quello che succede nelle situazioni come quella dell'ILVA e di segnalare eventuali violazioni della legge alla stessa magistratura. Quindi stiamo parlando quasi di una forma di polizia giudiziaria. Ebbene, questo signore, che è un tecnico, è venuto a dirci che l'attuazione dell'AIA, per tante ragioni, è in ritardo. Non è vero quello che dicono gli estremisti ambientalisti, che l'ILVA non sta facendo niente, ma è vero che l'ILVA non ha fatto tutto quello che doveva fare. È in ritardo per N ragioni. Allora, a questo punto è scattato, anche per risolvere il contenzioso con la magistratura, da una parte il commissariamento e dall'altra il nuovo piano. Il nuovo piano che cosa può, dove ci può portare? Ci può portare o ad aggiungere ulteriori prescrizioni all'AIA, e io questo lo troverei, diciamo così, un tantino, insomma è una cosa su cui bisogna stare un po' attenti, perché già l'AIA attuale, quando sarà attuata del tutto, farà di Taranto lo stabilimento siderurgico più pulito d'Europa, e se è il più pulito d'Europa vuol dire che è il più pulito del mondo, perché fuori dall'Europa le regole ambientali anche negli Stati Uniti sono assai più lasche. Ecco, io non vorrei che diciamo così, chi gioca in Serie B improvvisamente si proponga di vincere il giorno dopo la Champions League, perché c'è poi un sacco. Ecco, io direi facciamo le cose giuste, ma questo piano è comunque indispensabile per un piccolo dettaglio che forse a tanti sfugge, e cioè che il commissario o qualunque altro gestore dell'ILVA che prendesse in mano oggi la situazione, perché il Consiglio si era presentato dimissionario, e comincia a operare, si trova strutturalmente in ritardo e quindi inadempiente, quindi passibile di misure interdittive da parte della magistratura, proprio perché siamo indietro rispetto all'AIA. Allora ci vuole un nuovo piano che riazzeri il cronoprogramma e ci dica: vabbè, siamo arrivati fin qui, da qui al traguardo rifacciamo il cronoprogramma in modo tale da poter essere in regola. Okay. Il problema è salvare l'ILVA, non è quello di chiuderla, e quindi da questo punto di vista credo che l'intervento del governo possa essere utile. Quanto all'esproprio, mi sembrano parole al vento, se posso dirlo, no? Può darsi per quanto riguarda l'Ilva, io non, sinceramente non mi esprimo su questo, però c'è chi dei dubbi appunto sull'impatto che potrebbe avere anche su altre aziende. Saluto a questo proposito Altero Matteoli, senatore del PDL, che siamo riusciti a raggiungere perché abbiamo visto che è quello che ha fatto le dichiarazioni un po' più dure in merito a questo, e ci interessava sentire su cosa le basa e quali opinioni ha in merito soprattutto alla portata complessiva di questo decreto. Poi verremo anche nella seconda parte, come si diceva, all'aspetto industriale. Matteoli, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti voi. Allora, sappiamo che tra 10 minuti deve parlare in aula, quindi molto rapidamente, come la vede lei, insomma? Guardi, io ho seguito la vicenda dell'Ilva da anni, perché ho fatto il ministro dell'ambiente per 6 anni e quindi il problema dell'Ilva esisteva anche allora. Io tante volte sono andato a Taranto, ho parlato naturalmente anche con i magistrati allora, abbiamo cercato di dare alcuni finanziamenti, abbiamo chiesto alla proprietà di fare interventi. Se qualcuno pensa di poter produrre nel settore della siderurgia a inquinamento zero, è un sognatore, certamente si può però inquinare quanto basta per non danneggiare la salute dei cittadini, e questo si deve naturalmente tendere a raggiungere tutto questo. Ora, per quanto riguarda quello che è avvenuto ieri, il commissariamento, qui c'è una proprietà privata. È caduto il consiglio, i soci ne eleggono un altro, decidono loro se volere affidare ad un commissario, ma si crea un precedente che a me spaventa, perché anche nelle dittature di sinistra siamo arrivati all'esproprio attraverso passaggi graduali. Per carità, non è certamente questo il governo che tende all'esproprio proletario o comunque allo sproprio, ma certamente sono preoccupato. Le sa un po' di Venezuela, dice lei. Bravo, proprio questo le stavo per dire. Essendo stato in Venezuela, incontrando nei incontri bilaterali da ministro, o incontrando gli industriali venezuelani, molti italiani anche, che erano andati lì ad investire, si sono visti gradualmente espropriare le proprietà attraverso provvedimenti come quello che è stato preso l'Ilva. Le voglio anche aggiungere, per onestà intellettuale e poi per verità, che non è in discussione la figura di Bondi, che io conosco benissimo, lo stimo, quindi so quel che ha fatto al Little City di Piombino, alla Parmalat, quindi il personaggio, se si doveva commissariare, è sicuramente il migliore che è sulla piazza, quindi non è in discussione questo, è in discussione un provvedimento che io trovo assolutamente inadeguato e che crea precedenti preoccupanti. Battaglia in Parlamento, immagino, a questo punto. Ma certo, io non voterò mai questo mai, anche se fossi solo nel mio partito. Ed è solo Matteoli su questo? No, mi pare che anche qualche altro autorevole personaggio politico, come Sacconi, mi pare che sia sulla mia posizione, insomma, ma parlando anche con alcuni colleghi, senatori o deputati, questa mattina ho ricevuto molte telefonate che mi si diceva: bene, hai fatto bene, siamo d'accordo con te, quindi non sono solo. Però voglio dire, anche se fossi solo, queste sono battaglie di principio alle quali una persona non può derogare. Grazie Altero Matteoli anche per la sua posizione, buona giornata e buon lavoro in Parlamento come sempre. Paolo Bricco, oggi tra l'altro tu hai scritto un commento su questa questione. Ma sì, innanzitutto... Fammi ricordare naturalmente agli ascoltatori che ancora non l'ho fatto, ma insomma ormai lo sanno, è l'800240024 per intervenire in diretta, se volete la pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24 e se volete anche su Twitter, già mi state scrivendo, poi magari dopo leggiamo qualcosa, mi trovate là, Simone Spezia. Vai Paolo. Sì, il linguaggio usato dall'ex ministro dell'Ambiente Matteoli è probabilmente un linguaggio immaginifico ed esagerato. Mi pare che parlare anche ironicamente o sarcasticamente di rischio di esproprio, di nazionalizzazione alla Chavez o di esproprio proletario sia fuori luogo comunque. Però certo, al dunque si è creata una situazione per cui a imprese sottoposte a problemi di carattere giuridico ambientale ci potrà essere, come ricordavi giustamente tu all'inizio, una nuova figura che è quello di un capo azienda con poteri fortissimi, in qualche maniera imposto o posto, a seconda delle situazioni e dei punti di vista, dalla politica. E questo non è poca cosa, nel senso che fino ad ora nella prassi dell'Italia della crisi che conosciamo bene purtroppo come osservatori o come politici o amministratori locali che devono avere a che fare con le crisi aziendali, molte che da 10, 15, 20 anni percorrono il nostro paese, e di solito il commissario posto dal governo veniva posto in casi in cui l'azienda era ormai andata in default e quindi in amministrazione straordinaria. In questo caso invece abbiamo un'impresa che... È il caso tra l'altro di precedenti esperienze dello stesso Bondi. Insomma. Esattamente, esattamente. Per cui appunto, come diceva Matteoli, nessuno mette in dubbio come dire, il profilo professionale di Bondi, che è uomo con ottimo rapporto con il mondo bancario e ha già fatto ristrutturazioni pesanti. Però si è creata una nuova condizione che... in futuro potrebbe anche fare sì che un governo in condizioni diverse possa decidere per un qualche problema di intervenire pesantemente nella vita di imprese che, torno a dire, non sono tecnicamente in default, per quanto siano ibernate finanziariamente e patrimonialmente in condizioni di operatività molto difficile. E proprio a questo veniamo, alle condizioni di operatività dell'ILVA, subito dopo la pausa, e voglio anche sentire subito dopo la pausa Mucchetti per capire, perché a me è molto chiaro il concetto che si è intervenuti per cercare di sistemare una situazione che altrimenti non si riusciva a sistemare, che è la situazione dell'ILVA, quello mi è assolutamente chiarissimo. Però voglio capire da Mucchetti se secondo lui ci sono dei margini per modificare questi aspetti che evidentemente alcuni ritengono critici, alcuni ritengono di allarme e altri ritengono anche come rischiosi, no, per il futuro dei già scarsi investimenti esteri in Italia, no? Perché lo ritengono un brutto segnale. Voglio capire se ci sono margini da questo punto di vista per qualche modifica. 9 in punto. Un giro di opinioni dagli ascoltatori. Tonino D'Ambrosio mi scrive su Twitter: è scandaloso parlare di esproprio, si tratta di un atto di responsabilità, personalmente ricorrerei ad azionariato diffuso. Beh, insomma, bisogna vedere come, mica lo puoi forzare. Gira ai termini della cosa Filippo Corbetta, dice: un brutto segnale che la grande industria italiana costringa il governo ad interventi di questo tipo. Pierluigi Corradi invece su Facebook: nel momento in cui aziende non sono in grado di far fronte agli impegni assunti, anzi creano seri problemi alla popolazione, allo Stato, è il minimo che questo si sostituisca nella gestione dell'azienda, ovviamente allo scopo di limitare i danni. Sergio da Varese, buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, io ho sentito il rappresentante del nostro Parlamento che si scandalizzava dell'intervento di Bondi come commissario. Io trovo invece scandaloso... No, guardi Sergio, forse ha sentito male, perché non c'è nessuno che si è scandalizzato per la figura di Bondi, diciamo così. No, ho capito. Sì. Il fatto che sia stato nominato un commissario, ecco, io trovo invece che sia doveroso che lo Stato intervenga in una società che non è in default, è vero, però deve pagare 9 miliardi per danni ambientali che ha causato e di conseguenza tutelare la salute pubblica e tutelare soprattutto un'industria che è basilare per il paese. Una sorta di dichiarazione di default ambientale, se così possiamo dire, non, forse la definizione giusta è questa. Mucchetti, e poi veniamo appunto a come far proseguire, a come può proseguire questa azienda, e quindi veniamo all'aspetto più industriale. Chiudiamo, anche se gli ascoltatori voglio continuare a sentirli anche su questo aspetto qua e sull'aspetto del decreto, con quello che le dicevo prima, insomma è vero che Ilva è un caso e qua si è intervenuti per un caso, giusto intervenire, per carità, non è che non stiamo dicendo che no, non è che stiamo dicendo che non si dovesse intervenire, perché in qualche modo bisognava fare. E però dall'altra parte sui rischi di estensione, sulla possibilità di modifica in Parlamento di questo decreto, magari nella chiave che diceva Matteoli. Ma io credo, intanto un chiarimento all'ascoltatore che è intervenuto prima e con il quale, secondo lo spirito, sono d'accordo, però non è che l'Ilva deve pagare 9 miliardi di danni ambientali, questa è una cosa che non c'è, no? Il punto è, direi che non c'è nemmeno però l'esproprio, perché il commissariamento dell'Ilva è per un problema di mancati investimenti a tutela dell'ambiente, come ha detto benissimo Paolo Bricco prima, è cosa diversa da Parmalat, che è una società che altrimenti sarebbe che era in fallimento, e quindi si è andati a salvare la sostanza industriale della Parmalat sistemando tutte le altre cose. Nel caso dell'Ilva, l'Ilva è una società che guadagna dei quattrini, è una società che va bene compatibilmente con la congiuntura, e quindi il problema qual è? Il problema è quello di destinare le risorse che l'Ilva genererà lavorando. Io insisto su questo punto, l'Ilva non chiude, l'Ilva va avanti, e con i soldi che guadagnerà più un po' di credito bancario farà gli investimenti che finora non ha fatto o non ha fatto in misura sufficiente. Io non voglio neanche gettare la croce addosso ai Riva, che ho conosciuto e che so essere industriali assai capaci sul piano della gestione operativa dell'azienda, non hanno fatto tutto quello che dovevano fare sul piano ambientale, ma finito il commissariamento l'azienda tornerà a loro, e tornerà a loro rimessa all'onore del mondo, sarà un'ottima azienda siderurgica che potrà lavorare. Cosa ho detto prima? Ho detto facciamo in modo che il nuovo piano ambientale sia fatto per poter dare attuazione senza ulteriori rischi giudiziari all'AIA, non per mettere ulteriori lacci e lacciuoli all'azienda, perché allora andremmo male. Allora questo è un primo punto, non è una cosa qualsiasi, io credo che su questo punto anche con il collega Matteoli ci possa essere una convergenza, facciamo le cose che è giusto fare, non facciamo i pierini, perché i pierini allora devono dire un'altra cosa, devono dire che vogliono chiudere l'Ilva. E questo si può dire, a costoro ricorderei che c'è stato un referendum in materia a Taranto che ha avuto l'esito che ha avuto, cioè la città l'ha respinto. Quindi questa è un'ipotesi che non è più sul tappeto né della politica né del buon senso. Ora, c'è un punto che andrebbe chiarito in quello che sarà poi il passaggio parlamentare del decreto. E il punto è se e in che misura ci sia stato un contraddittorio con l'azienda, perché questo è il punto che sotto il profilo giuridico interessa, se ci sia stato e in che misura ci sia stato e come sia avvenuto il contraddittorio con l'azienda preliminare alla decisione del governo di arrivare al commissariamento. Questo noi lo vogliamo capire, cioè non è che stiamo a bere tutto quello che fa il governo perché c'è una maggioranza, perché ci sono le condizioni che si sappiamo, cioè, il Parlamento esiste, il Parlamento darà un'occhiata molto seria a queste cose e prenderà le decisioni del caso. Detto questo, io non credo che il caso Ilva ci autorizzi a dire che le 5.000 imprese medie e medio grandi e grandi italiane sono tutte a rischio Ilva, perché insomma questa è un'esagerazione. D'altra parte lei stesso prima ha ricordato un elenco europeo di imprese teoricamente a rischio ambientale, in cui quella italiana è una sessantina, non credo di aver capito male. Sì, sì, certamente sì. Non è che possono essere solo siderurgiche. Lei ha presente cosa può inquinare una cartiera? È una roba enorme, cioè, se non è fatta bene. Una fabbrica di alluminio, cioè, esistono attività industriali che sono industrie chimiche. Vogliamo ricordare la famosa Acna di Cengio, fu un disastro. Però da questo punto di vista, mi scusi Mucchetti, lei mi sta dicendo sostanzialmente che la possibilità di estensione di questo decreto oltre l'ILVA effettivamente c'è, poi che riguardi un numero limitato di casi, insomma, è evidente, no? È chiaro. Mi perdoni, ma se adesso io non lo so, io sono abituato a ragionare su quello che c'è sul tavolo, ma le faccio un discorso concettuale, sì, no? A Brescia, mia città, lei ha ricordato prima, non c'è solo l'acciaio, c'è stata anche la chimica, c'è un'azienda che si chiama Caffaro, ha cessato di produrre nel 1983-84, produceva dei prodotti chimici che rilasciavano PCB, lei sa che dopo 30 anni c'è ancora un problema, quindi voglio dire, sono cose serie queste, non è che possiamo risolvere citando Adamo Smith e gli economisti scozzesi del Settecento, qui abbiamo dei problemi seri che vanno affrontati seriamente. Lei sa che negli Stati Uniti il problema della bonifica ambientale dei terreni, per esempio quando ci sono passaggi di proprietà fra un'azienda e l'altra, sono, diciamo così, introducono dei vincoli fenomenali, e da noi abbiamo dormito su queste cose. Allora, quando una multinazionale viene in Italia, deve avere un quadro certo, non un quadro comodo, un quadro certo, perché se la multinazionale è seria, e io non dubito che molte sono serie, e che l'Italia rappresenta un buon mercato e un buon giacimento di abilità professionali, se l'Italia è tutto questo, l'Italia deve dare delle regole sicure, mentre cosa fa l'Italia oggi e fa male a farlo? In prima battuta apre le porte, fa il grande sorriso e poi quando al dunque, strada facendo, ne capitano di tutte. Perché? Perché poi le leggi vengono fatte, vengono cambiate, vengono interpretate. Questo è il vero problema. Non è il fatto se c'è o non c'è l'esproprio quando tu hai fatto una cosa molto grave, perché poi non è una cosa automatica, non è una cosa per burocrati, questa è una cosa su cui, come dire, c'è un confronto, c'è una verifica, c'è un dato pubblico, certo, a cui le persone possono fare riferimento. Quindi io, se ci fosse, in teoria, stiamo ragionando, un altro caso ILVA uguale da un'altra parte, beh, io penso che dovremmo porci il problema di come risolverlo, non di fare dei discorsi filosofici in materia. Io il rispetto della proprietà privata ce l'ho al 100%, perché essa è una delle principali libertà democratiche e quindi va rispettata. La Costituzione italiana aggiunge, e in questo ha ragione, che comunque è nell'ambito del non fare danni al resto della comunità, no, quindi l'attività economica è libera nell'ambito delle leggi. Allora, se qui erano state fatte delle prescrizioni dal Ministero dell'Ambiente e queste prescrizioni per una ragione o per l'altra non sono state rispettate, ci sarà un problema o no? Allora, il tema è la soluzione adottata dal governo, io la vedrei così, è più efficace o meno efficace del mero cambiamento di un consiglio di amministrazione? A questo proposito, se non fosse che il dottor Bondi è famoso per il suo essere taciturno, io chiederei al dottor Bondi, magari chissà che non lo invitiamo anche ieri me l'hanno chiesto su Twitter, mi hanno detto perché non inviti Bondi, e ho detto provate voi a farlo parlare Bondi. Ci proverei anch'io, ma insomma, ecco, sono sicuro, sono certo che Bondi, che è un grande manager privato, ma sa essere anche nei momenti, diciamo così, topici, anche un servitore della comunità, un civil servant, io credo che quando sarà il momento verrà, quando avrà maturato anche qualche cosa da dire, verrà e ci potrà dire se per la sua funzione di commissario è una funzione che diventa utile a risolvere il problema. Cioè, il mio punto non è quello di difendere un partito preso, è quello di risolvere un problema. Se c'è una soluzione migliore di questa, la si qualcuno, lei dice qualcuno la tiri fuori, Paolo Bricco. Ecco, ma io volevo soltanto aggiungere una cosa alle parole appunto di Massimo Mucchetti e anche di Simone Spezia. L'aspetto secondo me comunque positivo della giornata di ieri e di oggi è che, al di là del fatto che si è creato un dibattito all'interno del governo in merito al provvedimento e che quindi potrebbero esserci o magari non ci saranno dei cambiamenti al profilo giuridico normativo in tema di diritti di proprietà più o meno estesi, più o meno esercitabili durante i 3 anni dopo, e quindi come dire, quello, la politica serve a questo, ecco, serve a fissare dei quadri, un quadro preciso, però direi che fra ieri e oggi almeno una cosa è stata ben definita, cioè che l'Ilva non va chiusa. L'Ilva non va chiusa, né va, come dire, nazionalizzata, che in qualche maniera sarebbe stato prodromico alla chiusura. Perché dico questo? Perché da un'analisi che appunto come Sole 24 Ore stiamo facendo, cercando di monitorare il più possibile non soltanto i temi giuridico-politici ma anche i temi industriali e finanziari, un elemento interessante che è venuto fuori in questi giorni, in queste ore, è proprio il fatto che è già successo in questo anno così complesso a Taranto un mezzo miracolo, cioè l'Ilva in sé come organismo industriale, per quanto sottoposto a una tensione finanziaria fortissima, a un pressing e a, come dire, a degli effetti molto duri della battaglia ambientale e giudiziaria che si è verificata intorno, e come organismo industriale ha retto, nel senso che basti dire che lo stabilimento di Taranto oggi come oggi è al 70% della propria capacità produttiva. L'area a caldo ha continuato a funzionare e la proprietà e anche, come dire, la comunità, perché poi queste cose sono scelte che vengono compiute in maniera più ampia, ha scelto in questo anno di conservare l'integrità del ciclo. Ecco, può sembrare un tecnicismo ma non lo è, perché oggi come oggi le bramme, cioè i primi anelli della catena siderurgica, si potrebbero comprare sul mercato dai produttori Urali, degli Urali, dai produttori russi, dai produttori turchi a prezzi molto molto convenienti, e quindi l'Ilva avrebbe potuto scegliere di rinunciare a una parte del ciclo integrato, ma non lo ha fatto. Questo è comunque un'eredità positiva. Chiunque adesso si trovi a gestire un'azienda in condizioni, un'azienda che non si è disintegrata, questo è importantissimo, ma è importantissimo per l'economia italiana, ma anche per i 12.000 dipendenti di Taranto. 9 in punto. Abbiamo Vito che ci chiama proprio da Taranto. Buongiorno Vito. Buongiorno, chiamo da Lucca, da sono tarantino, no. Però vivo da 20 anni a Lucca. No, sono tarantino e conosco un po' tutto, perché mio fratello ci lavorava nell'Ilva, era un caposettore, insomma, mi diceva un po' di robette. Poi insomma la vivo perché chiedo sempre. La cosa che mi domando è questa: siamo giunti a questa situazione del commissariamento perché? Anche perché dimissione del Consiglio di amministrazione, perché non è stata attuata tutta l'area, o meglio, dicono che sono in ritardo. Se ritardo, cioè se l'hai fatto qualcosa, si intende tirar su delle reti verdi per coprire i parchi minerari, ci stiamo prendendo in giro. Allora, in Riva hanno cosa dovevano investire per l'ambiente, cosa che non hanno mai fatto negli anni dal 95, se non sbaglio, hanno comprato l'Little Cedar, giusto? Cioè svenduta in realtà per un tozzo di pane, l'hanno comprato, 95 miliardi, quant'erano? Non ricordo, delle vecchie lire. Cioè l'hanno svenduta, quindi non c'è stato nessun tipo di investimento vero e proprio per salvaguardare. Adesso c'è un commissariamento e chi paga? Chi paga cosa intende? Cioè chi paga la messa a norma? Chi le paga queste le sono, i soldi deriva. No, i soldi deriva. Poi ci sono dei cofinanziamenti europei, se non sbaglio, Paolo. I cofinanziamenti europei, ecco, chiariamo, i finanziamenti europei e anche pubblici riguardano la bonifica di tutto ciò che è fuori dal perimetro della fabbrica. Dello stabilimento, esatto. Certo. Naturalmente è l'impatto di lungo periodo dell'industria pesante che è lì dagli anni 60, ma riguarda ciò che è fuori dalla fabbrica. L'AIA invece riguarda tutto ciò che è dentro alla fabbrica. Grazie. In realtà c'è un altro Vito che ci chiama da Taranto, ecco. In questo caso. Vito, buongiorno. Di nuovo un altro Vito. Buongiorno, prego. Buongiorno, mi sente? Sì, posso? La sento. Salve, io no, volevo dire due parole all'ex ministro, perché sono praticamente scandalizzato di quello che dice, perché come al solito, chiaramente siamo anche scandalizzati un po' da tutta la politica degli ultimi anni, perché il ministro si preoccupa dell'eventuale privatizzazione di un bene, dell'eventuale resa pubblica di un bene che era privato. Invece non si preoccupa dei danni che effettivamente ha fatto questo stabilimento. Questo non è più uno stabilimento, questo è diventato un corpo di reato e di conseguenza non è più un'azienda pulita che ha fatto sempre il suo dovere. Di conseguenza è chiaro che è una soluzione estrema a dei mali estremi che sono stati prodotti. Poi il signor ministro, ex ministro, ha detto che è stato ripetutamente negli anni scorsi in questo stabilimento e non si era accorto di nulla, come al solito adesso andiamo a creare dei problemi proprio per cercare di non analizzare veramente qual è il vero problema, perché adesso si sta montando questo scandalo in un'azienda che rischia di essere di venire pubblica, quando Grazie. Invece non è quello il problema. Grazie Vito. Per chiudere, Mucchetti, abbiamo purtroppo solamente un minuto. Come sottolineava Bricco poco fa, la realtà, la cosa buona è che tutto sommato dal punto di vista industriale l'Ilva sembra reggere, insomma, no? E su questo bisogna fare leva, anche perché rispondendo all'ascoltatore di prima, il risanamento ambientale dell'Ilva, l'apparato produttivo dell'Ilva, può essere conseguito con i denari dell'Ilva. Il finanziamento bancario che verrà diciamo erogato sarà un finanziamento bancario alla società Ilva, a questo punto gestita dal commissario, che userà quei denari per fare gli investimenti e userà i ricavi, i guadagni della società Ilva per ripagare le banche. A quel punto, quando il programma sarà ultimato, la società verrà correttamente restituita ai suoi legittimi proprietari. Cioè, questo è il percorso. Vorrei dire che semmai qui c'è un altro punto conclusivo che vorrei ricordare, che a questo punto la patata bollente è, attraverso il commissario, nelle mani del governo dello Stato. A questo punto non potremo più prendercela con i Riva che hanno fatto o non hanno fatto, ma ce la dovremo prendere con lo Stato che si è assunto per intero la responsabilità della gestione di tutta l'area, diciamo, tarantina dell'Ilva. Ecco. E questo è un'assunzione di responsabilità molto importante, molto seria. No? La devo interrompere, Mucchetti, perché sennò mi tagliano la linea, succede sempre così. Grazie a Massimo Mucchetti per essere stato con noi, a Paolo Bricco, Paolo Corleone in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.